A bordo campo di Dario Ricci. Mi trovo in pieno oceano Atlantico e ho superato le Canarie, ho lasciato a sinistra le isole Canarie e ho la prua rivolta orientativamente verso le isole del Capo Verde che sono davanti a me. Era il novembre scorso, il novembre 2009, con Alessandro Di Benedetto ci eravamo lasciati così, noi qui comodi in studio con le nostre cuffie in testa, lui in mezzo all'oceano Atlantico di fronte alle Canarie, che stava cercando di portare a termine un'impresa folle e meravigliosa. Alessandro, a qualche mese di distanza, bentornato a bordo campo innanzitutto, e beh, come è andata a finire quell'impresa? Beh, grazie per l'attenzione, per il vostro interesse. L'impresa è andata a buon fine, sono arrivato il 22 luglio alle Sable d'Olonne e quindi concludendo il viaggio. Tra l'altro lo scafo, a parte l'albero che ho comunque riparato nell'Oceano Pacifico, la barca è arrivata in ottime condizioni e anch'io, e quindi ho stabilito questo primato e record del mondo e sono contento. Allora, record del mondo di circumnavigazione del globo terrestre nel miglior tempo possibile, 268 giorni, e con la barca più piccola mai utilizzata per un'impresa di questo genere, un'imbarcazione di 6,5 metri, e chiaramente in solitario, anche perché sennò diventava facile, no? Beh, in solitario, sì, con le stesse regole di una famosa regata che prende le origini nel 1968-69, il famoso Golden Globe, poi divenuta Van de Globe, che però si corre ogni 4 anni su barche di 18 metri. E le regole sono molto semplici: una persona, quindi uno skipper, in solitario, senza scalo, senza assistenza, su una barca, un monocarena, quindi neanche un multiscafo. E quindi questa volta io sono partito, però sono una barca 3 volte più piccola, con le stesse condizioni, quindi con le stesse regole, e quindi bisogna doppiare i 3 capi, lasciare a sinistra i 3 famosi capi, e quindi insomma, la navigazione ha comportato una discesa tra virgolette di tutto l'Oceano Atlantico, Nord Atlantico, Sud Atlantico. Lì poi ho doppiato Capo di Buona Speranza ed è stato l'inizio del nuovo anno, il 2010. E poi rotta nell'Oceano Pacifico e già si scende oltre i 40 ruggenti, 50 urlanti, e fino a sud, diverse centinaia di miglia a sud del secondo capo, che è Cape Lewin, nel margine, insomma, sul sud occidentale dell'Australia. E quindi sono passato in mezzo a delle isole che normalmente si vedono solo nei documentari sulle orche o i pinguini, che sono le isole del Prince Edward. Poi sono passato a sud delle Crozet e ho avvistato le isole Kerguelen sulla mia sinistra, e sono passato a sud delle isole Kerguelen. Il viaggio è continuato con un po' risalita verso il mare di Tasmania per evitare la parte più dura di una tempesta, di una bassa pressione molto violenta, e poi di nuovo la discesa, di nuovo riguadagnato i 50 gradi di latitudine sud, i 50 urlanti, passando a sud poi della Nuova Zelanda, l'ingresso quindi nell'Oceano Pacifico, nuove tempeste, molte più che nell'Oceano Indiano, arrivare a circa 900 miglia a ovest delle coste cilene, e lì ho disalberato un frangente enorme, ha colpito in pieno lateralmente perché un'onda dovuta all'incrocio di più onde al termine di una forte burrasca, e ha spezzato l'albero in 3 pezzi. Ho impiegato 2 giorni per armare, mettere su un armo di fortuna, quindi con il pezzo più lungo che era rimasto dell'albero ho confezionato un nuovo albero e ho potuto issare nuove vele. Logicamente la barca ha sofferto un po' di questo in termini di media, però fino a Capo Horn no, perché ho avuto del vento molto forte, quindi altre burrasche, e ho potuto tenere una buona velocità. Poi sì, è stata penalizzata, l'avanzamento è stato penalizzato vuoi per quest'albero ridotto, e quindi che non mi consentiva di mettere tutta la superficie velica originaria, vuoi anche per mancanza di vento all'altezza, già insomma bene o male tra a est dell'Argentina, Brasile, lì vi è stato veramente poco vento, e quindi ho impiegato un po' più di 3 mesi tra l'altro per rifare compiere tutta questa risalita da Capo Horn. Ecco, che per capire che per Alessandro Di Benedetto, 39 anni, romano, padre agrigentino, madre francese, il mare non sia un lavoro ma è in realtà una passione, se non bastasse il giro che ci ha sinteticamente descritto, beh, Alessandro, spiegaci da dove stai parlando, se non sbaglio stai in barca. Beh, io sì, in questo momento sono in barca, non la mia in questo istante, perché sto cercando un po' di curare, di leggere più che altro tutta una serie di messaggi, centinaia e centinaia che sono arrivati, che sono conservati nella mailbox del sito internet, e sto cercando piano piano di iniziare a leggerli per poter rispondere a tutte le persone che comunque hanno inviato dei messaggi di incoraggiamento, soprattutto per partire insomma dal disalberamento, ma anche prima. Quindi io mi trovo alle Sable d'Olonne, a Pau-Olonnat, dove sono ospite, dove ho ricevuto, tra l'altro a seguito della riuscita, del rientro, dell'arrivo del Giro del Mondo, la cittadinanza onoraria della città di Les Sables d'Olonne dal sindaco. E quindi sto parlando proprio qui dal Marina, da Pau-Olonnat, il punto, un posto mitico, mitologico, forse si può dire, da cui parte il Van de Globe ogni 4 anni. Quindi insomma una certa ritrosia alla terraferma, diciamo così. Senti, immagino tanti incontri, tante avventure, come in qualche modo ci hai raccontato, quella che sicuramente ti rimarrà per sempre nel cuore di questa traversata. Ma è una cosa molto toccante, che mi vengono un po' le lacrime, anche che mi commuovo veramente a ricordarla. È stato insomma l'incontro, accarezzare i delfini nell'oceano indiano, e questo tra l'altro c'è una persona cara che conosco, per cui era un sogno farlo, e anche per me, e quindi è una cosa che ho fatto, ed è stata un'emozione enorme, non mi era mai capitata nella mia vita, ed erano dei piccoli delfini di taglia, grigi e bianchi, ma avevano veramente affettuosi, erano una cosa fantastica, uno dopo l'altro. Io mi sono sporto dal buon prezzo, uno dopo l'altro venivano, si scansavano, prendevano il posto e facevano delle esibizioni particolari, saltando di fianco e poi venendo a strofinarsi sulle mie mani, a volte proprio a spegnere anche questa videocamera subacquea che io tenevo in mano, proprio perché venivano a toccare la mia mano, e si sono fatti proprio accarezzare la coda, la pinna dorsale, il fianco, è stato meraviglioso. E poi comunque anche incontri di balene, di capodogli, di albatros, che mi hanno scortato per tutto il viaggio, fin dai 30, sotto i 30 tempestosi, 40 ruggenti, 50 e 60 assordanti quasi, perché a Capo Horn io non avevo delle regole, delle porte da rispettare, come il Van de Globe, ero libero, visto che era una prima mondiale su una barca così piccola, e quindi sono sceso anche più a sud della rotta comune percorsa alle barche 18 metri, e Capo Horn, io ho visto l'isola Ramirez che si trova a sud di Capo Horn, sui 57 gradi circa, 56-50 di latitudine sud, e gli dicevo gli albatros fino al largo dell'Argentina, sono stati veramente un'emozione, in un momento particolare di calma, vicino a 70 miglia circa la Nuova Zelanda, è stata una cosa che ho documentato bellissima, gli albatros che sono ammarati e hanno fatto salotto a pochi metri dalla barca, così come l'incontro delle foche, a volte mi sono girato e a poppa in scia non c'erano delfini ma c'era una foca, oppure sorprendere, filmare e fotografare le foche che dormono e sorprenderle a vela, che fanno il morto galleggiando e riposano così. emozioni ma anche pericoli, no? Quelli che ci racconti, Alessandro. E allora ti chiedo, c'è una grande attesa adesso per il Giro del Mondo in solitario che farà questa giovanissima velista olandese Laura Dekker. Dopo una lunga disputa in tribunale c'è stato il via libera e la ragazza è pronta a salpare. Alla luce della tua esperienza, ritieni fattibili queste imprese e eticamente ammissibili? Ma allora, fattibili sì, poi invece insomma forse un po', cioè, 16 anni è già diverso, per carità, le donne maturano molto più velocemente degli uomini, quindi questo uno lo vede a scuola, no? Se ne accorge anche come penso cerebralmente, no? Intendo, forse anche come carattere. Insomma, c'è penso anche una differenza fra 16 anni, fra i 16 anni di Abby Sunderland e di Jessica Watson e 14 anni di questa ragazza. Forse ci può essere anche un po' una forzatura, perché diceva comunque un medico, io ho letto questa notizia in questi giorni in Francia, un po' mi trovo d'accordo, che comunque a 14 anni è difficile avere la cultura dell'avventura, perché è una cosa che si acquisisce col tempo. Quindi questo è l'unico, quindi ritengo fattibile l'impresa, con molti rischi, molti di più di quelli che potrebbe avere una navigatrice maggiorenne, diciamo così, o un navigatore. Ciò non toglie che comunque quando io sono stato raggiunto via messaggio da Abby, che poi ha disalberato ed è stata salvata, non ho potuto far altro che mettermi a disposizione in termini di eventuali consigli, perché aveva avuto dei problemi con gli autopiloti, fargli insomma il mio buon vento, curare il mio buon vento per la sua circumnavigazione, come lei aveva fatto a me, perché abbiamo passato Cap Horn a pochi giorni di distanza, e poi scrivere comunque sul mio sito che si tratta, parlo in particolare di Abby e di Jessica, di ragazze comunque fuori dal comune, perché ci vuole comunque carattere, una certa formazione. Poi l'elogio, insomma, non sta a me dire, parlare lì, poi una questione psicologica o medica, di dire o legale, insomma, non sta a me, sta piuttosto alla famiglia, al suo entourage di esprimersi in questo senso. Io non posso che valutarne la parte sportiva, e quello che hanno fatto è enorme. Non mi dilungo sulla parte morale, perché siamo in una zona borderline, no? Perché insomma 16 anni, 18, ecco, già 14 mi sembra un po' poco. Per fare una cosa del genere ci potrebbe essere molto più condizionamento, diciamo, dalla parte della famiglia, ecco, molta spinta. Alessandro Di Benedetto, allora grazie per averci riportato in barca insieme a te, e come già eravamo stati almeno telefonicamente su e giù per gli oceani. E beh, visto che insomma con la terraferma il rapporto è quello che è, qual è la prossima avventura via mare a cui stai già pensando? No, io per il momento sono contento, quindi sono appena rientrato e insomma ho una serie di cose da risolvere, di problemi da risolvere qui a terra, quindi, che non avevo in mare, e a questi devo fare fronte, quindi un po' sono un po' proiettato in una realtà completamente diversa. Beh, dici, confessacelo Alessandro, si stava meglio per certi versi in mezzo all'oceano, eh? Sì, per certi versi si stava meglio in oceano, questo è sicuro. E allora Alessandro Di Benedetto, grazie per essere tornato qui a Bordo Campo, e l'augurio è quello classico e abituale, magari un po' scontato ma d'obbligo, buon vento. Grazie a voi, grazie. Sento la nostalgia di un passato E allora, le avete sicuramente riconosciute, inconfondibili le note di Raul Casadei di Romagna Mia. E perché? Perché oggi a Bordo Campo andiamo proprio in Romagna a scoprire la storia, i gloriosi 70 anni di una neopromossa d'eccezione, il Cesena, che torna quest'anno in A dopo 19 anni di purgatorio e anche di inferno, e torna con il ruolo di outsider, magari chissà, di qua, di bella sorpresa della Serie A. E allora ne parliamo con quella che è la nostra voce, una delle nostre voci più autorevoli nell'Emilia, ma anche e soprattutto nella Romagna. Benvenuto a Bordo Campo, Emilio Buttaro. Un saluto a te Dario, ben trovato, un saluto anche a tutti gli ascoltatori. Allora Emilio, oggi ospite a Bordo Campo perché lo sappiamo, segui in particolare il Bologna e le vicende sportive di Bologna e dintorni, ma la tua penna si è esercitata in questi mesi anche su un libretto veramente simpatico, Eroi in bianco nero. Costantini editore, i 70 anni della storia del Cesena, perché il Cesena torna in A quest'anno e quest'anno proprio festeggia 70 anni di storia. E allora il nostro Emilio Buttaro, penna alla mano, taccuino e microfono, ha intervistato, incontrato, ricostruito questa storia attraverso le vicende di 21 protagonisti della storia dei bianconeri. Beh, un bel viaggio nella memoria, no Emilio? Sì Dario, proprio così, ho cercato un po' di ricostruire questi 70 anni di vita, di storia del club bianconero, e attraverso 21 personaggi che hanno lasciato il segno nel corso di questo periodo, con una pubblicazione dal mio punto di vista rivolta un po' a tutti, agli appassionati di sport in genere, di calcio in particolare, e soprattutto ai tifosi del Cesena, tifosi un po' di tutte le generazioni, perché parto da Ceccarelli, che come sicuramente tu saprai è la bandiera delle bandiere del Cesena, un giocatore che ha disputato ben 520 partite soltanto in campionato con la maglia del Cesena, che ha iniziato a giocare a metà degli anni 50 già nelle giovanili del Cesena, per arrivare a Piangerelli, che è stato il capitano nella partita del 30 maggio a Piacenza, che ha sancito il ritorno della formazione romagnola in Serie A, come dicevi giustamente dallo studio, dopo ben 19 anni. Da Ceccarelli a Piangerelli, ma poi da Cera a Salvetti, passando per altri personaggi davvero importanti della storia della società romagnola, come Boranga, ma anche mi viene in mente Schachner, che è stato il primo straniero in assoluto nella storia del Cesena, o Rizzitelli, che è stato il primo giocatore del Cesena ad indossare la maglia della nazionale, ancora Festa, un giocatore amatissimo negli anni 70 a Cesena, e poi chiusura doverosa con il tecnico del doppio salto, il Mourinho di Romagna, come lo hanno definito da queste parti, vale a dire Pierpaolo Bisoli. Il sottotitolo al ritratto di Bisoli che ho dato è stato "Come lui nessuno mai", perché è stato l'unico allenatore nella storia del Cesena, e dunque nelle quattro promozioni del Cesena nella massima serie, ad essere riuscito a portare il Cesena direttamente dalla terza serie al campionato di Serie A. E beh, insomma, ce n'è da leggere e da raccontare. Per memoria personale, il Cesena che mi rimane più vivo nei ricordi di quando ero ragazzo è proprio il Cesena di Schachner, di Piangerelli, del portiere Recchi e di Piraccini, quel Piraccini che poi proprio insieme a Recchi si trasferì a Milano nell'Inter, dove per anni divenne un operaio ma anche di gran qualità del centrocampo nerazzurro. Ecco, di quel periodo, di quegli anni 80 in cui il Cesena si faceva largo nella Serie A italiana, che ricordi ci consegni? Ecco, allora diciamo che gli anni 80 sono stati degli anni importanti per quanto riguarda la storia del Cesena, perché in quegli anni il Cesena è riuscito ad ottenere ben due promozioni in Serie A, la prima nel 1981 con Osvaldo Bagnoli e poi in panchina, e poi con Bruno Bolchi nell'87. Sono stati anni importanti con dei giocatori, qualcuno che tu hai già citato dallo studio e che è a figura fra questi 21 giocatori che ho raccontato. raccontato nel libro, come ad esempio Piraccini. Sono stati anni sicuramente importanti, dicevo, nella storia del Cesena, anni durante i quali c'è stato anche un presidente importante come Edmeo Lugaresi, che è stato il massimo dirigente del Cesena per ben 22 anni, un'autentica icona vivente dello sport romagnolo. Dall'80 al 2002 massimo dirigente, ha vissuto le due promozioni che abbiamo appena citato negli anni 80, e tra l'altro io ho avuto il piacere e l'onore di avere la prefazione di questa pubblicazione proprio da Edmeo Lugaresi, mentre la presentazione è a firma dell'attuale presidente Igor Campedelli, ricordiamo il presidente più giovane della Serie B della passata stagione, un personaggio che è già stato definito come una sorta di re Mida del calcio. Volevo aggiungere, Dario, anche rispetto alla tua domanda, che quegli anni 80 a cui abbiamo fatto riferimento, durante i quali si sono registrate anche le due promozioni, sono stati gli anni seguenti alla vera esplosione del Cesena, perché il Cesena invece del decennio precedente, il Cesena degli anni 70, nel 73 per l'esattezza, ha ottenuto la prima promozione in assoluto nel campionato di massima serie con radice in panchina, ed è stato un fatto storico. Molti dei personaggi che ho avuto modo di contattare, e che ringrazio anche per la loro disponibilità, mi hanno detto che il Cesena, e c'è assolutamente da crederci, il Cesena di quei tempi era paragonabile più o meno al Chievo di un decennio fa. Era davvero una realtà importante che veniva fuori nel panorama del calcio italiano, e non solo, perché e i nostri ascoltatori, forse quelli con i capelli grigi, appassionati di sport e anche di calcio europeo, ricorderanno anche una partecipazione del Cesena in Coppa UEFA nel più o meno a metà degli anni 70, stagione 76-77. Il Cesena andò a giocare contro il Magdeburgo nella Germania dell'Est e uscì sconfitto nella partita di andata per 3-0, a nulla valse il successo nella gara di ritorno. Volevo dire ancora, Dario, che questa pubblicazione c'è lo sfondo appunto di questi 70 anni di storia del club bianconero, raccontati attraverso questi 21 personaggi che sicuramente sono stati dei personaggi significativi. Ovviamente di loro altri personaggi hanno anche parlato di questi giocatori che ho raccontato, come dicevo Bisoli è invece l'unico allenatore. E volevo dire ancora che, diciamo, il lavoro è stato anche il frutto di una serie di ricerche, di dati, ma anche di aneddoti che ho cercato di rispolverare insieme a questi personaggi, come ad esempio... È chiaro Emilio, che c'è, viene voglia un po' di abbandonarsi al gusto della marcorda, no? Quando si rispolverano e si ristudiano e si analizzano, si raccontano 70 anni di storia di una squadra di calcio, che poi è anche storia di una cultura, di uno spaccato, di una regione. Ecco, tanti aneddoti, quello che ci consigli di leggere sfogliando questo volume? Allora, io direi che, per esempio, consentimi di dirne due. Allora, diciamo, abbiamo rispolverato insieme a un personaggio che ha fatto la storia del calcio, non solo del Cesena, ma direi anche ha dato un contributo sicuramente alla storia del calcio di casa nostra, è Lamberto Boranga. E con lui abbiamo rispolverato qualche aneddoto simpatico, come ad esempio quando simulava il tiro al piattello per le conclusioni fuori bersaglio da parte degli avversari, o il fatto che soffriva gli attaccanti e che, come lui stesso ha raccontato nelle uscite, aveva sempre questo dubbio amletico se colpire col pugno il pallone o il viso dell'avversario, ma non per cattiveria. Diciamo che Boranga è sempre stato un personaggio sui generis, o quando si arrampicava sulla traversa perché l'arbitro non voleva sostituire il pallone sgonfio, o ancora una cosa impensabile nel calcio moderno, quando ad un quarto d'ora dal termine, mentre stava in porta, si faceva portare una tazzina di caffè dal massaggiatore. E tra i personaggi che racconto, a proposito di aneddoti, c'è anche il calciatore più prestigioso nella storia dei 70 anni del Cesena, che sicuramente è Pierluigi Cera, che a Cesena è arrivato da vice campione del mondo, perché è arrivato qualche stagione dopo i mondiali del 1970, quando l'Italia si piazzò seconda. e lui racconta la prima salvezza da capitano del Cesena quando l'allora presidente Dino Manuzzi gli disse: mi hai fatto rimanere in Serie A. Lui che era arrivato, come dicevo, da vice campione del mondo e che aveva chiesto gentilmente ai calciatori nel primo ritiro da neogiocatore del Cesena di presentarsi, perché il Cesena allora arrivava dalla Serie B e le partite di serie della cadetteria non venivano date in TV e quindi lui non conosceva i visi dei giocatori. I giocatori avevano anche così un pochino di imbarazzo nei confronti di questo giocatore che era arrivato anche con il titolo di cavaliere, poi diventarono amici e c'era, mi ha detto: guardi, io sono arrivato a Cesena nel 1973, dovevo andare via dopo la prima salvezza, dopo la seconda, sono passati tantissimi anni e mi ritrovo ancora qui, perché poi ricordiamo che lui ha avuto anche una carriera importante da direttore sportivo sempre in Romagna. E allora, eroi in bianco nero, Costantini editore, a firma di Emilio Buttaro. Però Emilio, c'è ancora un capitolo tutto da scrivere, consentimi, a questo tuo libro, e cioè la storia di quest'anno del Cesena. Bisoli, l'eroe di Romagna, è andato via verso altri lidi, quelli della Sardegna, quelli di Cagliari. Sulla panchina è arrivato Ficcadenti, e allora, da esperto, non posso che chiederti che campionato devono aspettarsi i tifosi romagnoli dai loro eroi in bianco nero. Allora, Bisoli ha lasciato un'eredità pesantissima, perché lui in due campionati ha fatto davvero l'inimmaginabile, ha realizzato un sogno per tutti i tifosi. In Romagna, come sai, il calcio è interpretato davvero come una vera e propria passione. Bisoli ha conquistato addirittura 134 punti in due campionati, un bottino pazzesco che poi è culminato con un grande traguardo, un grandissimo traguardo, quello della promozione nella massima serie, un mese dopo il 70° compleanno della società, quindi meglio di così non poteva andare. Ecco, Ficcadenti si ritrova adesso questa eredità pesante e i tifosi sono bene a conoscenza del fatto che sarà difficile ripetersi. Ovviamente ripetersi significherebbe conquistare una salvezza, ma a Cesena non c'è più Bisoli, che comunque è stato un uomo straordinario, una persona davvero sincera, leale, capace di guidare il gruppo dal primissimo giorno che è arrivato, quando il Cesena era ancora diciamo un po' sbandato tra virgolette, perché era piombato in terza serie. Adesso è arrivato un professionista comunque bravo come Ficcadenti. Sicuramente il lavoro sarà duro, ma a Cesena c'è anche una bella squadra di dirigenti. Come dicevo prima, il presidente Campedelli sa davvero il fatto suo. Ci sono alcuni professionisti che lavorano bene, che sanno scegliere anche i giocatori, e quindi a mio avviso sicuramente per il Cesena e per i suoi tifosi sarà durissima, ma qualora dovesse davvero conquistare un'altra salvezza sarebbe davvero una piccola Champions League per questa piccola realtà di Romagna, che comunque desta ancora simpatia a distanza anche di tantissimi anni da quando riuscì per la prima volta ad arrivare in Serie A. E allora staremo a vedere se il Cesena riuscirà a vincere il suo scudetto, cioè a ottenere questa salvezza. Intanto buona lettura con Eroi in bianco nero, Costantini editore, il libro a firma di Emilio Buttaro. Beh, Emilio, intanto grazie di essere stato a bordo campo con noi. Ti aspettiamo in voce ancora protagonista con il fischio d'inizio della Serie A. Bene, grazie Dario, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori, a presto, ci risentiremo con i nostri collegamenti dai vari campi di Serie A. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, vi ricordo che potete riascoltarci sul nostro sito internet www.radio24.it e scriverci all'indirizzo mail abordocampo@radio24.it. Un saluto da Dario Ricci.